Eccoci alla terza puntata di Coccoli al Silicio, piccolo inserto sulle tecnologie, la storia del pensiero scientifico, le cose aggeggiose e informaticose di Radio Wombat. Come avevo preannunciato la scorsa volta, torneremo a sto giro a parlare di positivismo ancora. In realtà non sarà l'ultima puntata, anche se avevo detto che era l'ultima, poi però mi sono accorto che avevo saltato pure tutti i pensatori tedeschi e quelli italiani, e qualcosina forse andrebbe detto anche a riguardo, quindi faremo un'altra puntata ancora sui pensatori positivisti. A sto giro vi toccano Herbert Spencer e Charles Darwin. Ora, su Darwin in realtà non volevo dire quasi niente, perché insomma, è già molto famoso e l'avete studiato anche molto a scuola, forse, non lo so, però insomma è più mainstream. Invece Spencer è meno noto, e allora consultando i miei testi sacri sui quali preparo la puntata, ho deciso di parlare un poco di più di questo pensatore, che chiameremo Herberto. Non so perché si chiama Herbert, ma Herberto mi sembra più amicale come approccio. Ecco, costui, un paio d'anni prima che il signor Darwin pubblicasse L'origine delle specie, in realtà parlava già di evoluzione, aveva già tracciato il significato di questo termine, e in particolare in un'opera che si intitola I principi di psicologia parla appunto di teoria evoluzionista. In un'altra opera che esce questa volta dopo L'origine delle specie, nei primi principi, torna a parlare di evoluzionismo, e in particolare però di un argomento che è interessante secondo me da sviscerare, e cioè si pone il problema della dicotomia tra pensiero religioso e pensiero scientifico, e nel fare questo traccia alcuni caratteri interessanti del pensiero scientifico che poi noi posteriori ereditiamo, infatti non vi suoneranno strani. Lui scrive: tanto nel mondo esterno che in quello intimo, lo scienziato si vede circondato da perpetui mutamenti, di cui non può scoprire né il principio né la fine. Più di ogni altro, lo scienziato sa con sicurezza che nulla può essere conosciuto nella sua ultima essenza. I fatti, quindi, secondo lui, vengono spiegati, e le spiegazioni vengono a loro volta spiegate, ma ci sarà sempre una spiegazione da spiegare. Per questo la realtà ultima è rimarrà sempre inconoscibile. Già l'altra volta abbiamo parlato dell'intorto che è il pensiero regressivo, che ci conduce poi a un punto in cui la nostra mente non può più nulla, e lui se la svolta quindi facile, dice: dunque, le religioni hanno il loro scopo, cioè l'assoluto esiste, noi possiamo essere sicuri che le religioni, quantunque nessuna sia vera, sono però tutte quantomeno delle pallide immagini di una verità. E così lui se la svolta in fretta, dicendo: la scienza c'ha lo scopo di indagare, la religione arriva quando, anche indagando, non si capisce più dove si arriva. È interessante perché mentre il signor Darwin nell'origine delle specie parla essenzialmente di uomo, dell'evoluzione del nostro corpo, no? Del fatto che secondo lui decidiamo da altre specie, nello specifico noi abbiamo bei rapporti con le scimmie, poi il pensiero evoluzionista si è cambiato e tutto quanto, però è interessante il fatto che Spencer invece lo lega a un ambito ben più ampio, si espande tantissimo e inizia a parlare di evoluzione dell'universo. E fissa su, parlando proprio dell'evoluzione dell'universo, alcuni principi, diciamo base, che poi sono quelli del pensiero evoluzionista. Infatti lui non si limiterà appunto a parlare di esseri viventi, ma parlerà di evoluzione dell'universo tutto. Allora, la prima caratteristica dell'evoluzione è, secondo il signor Spencer, che essa segna un passaggio da una forma meno coerente a una forma più coerente. Quindi un passaggio da qualcosa che prima era omogeneo a qualcosa che è eterogeneo e in qualche modo qualcosa che prima era indefinito e poi diviene finito. Cioè noi passiamo sostanzialmente da un sistema più caotico a uno più ordinatino. È importante questo passaggio perché si capisce per quale motivo poi il pensiero evoluzionista, in particolare quello spenseriano, tendono a questo ottimismo diciamo evoluzionista, per cui le cose alla fine tu non ci devi mettere troppo mano perché poi va da solo tutto quanto a posto. Infatti Spencer fu un pensatore abbastanza conservatore, diciamo, nel suo pensiero, per quanto non era proprio il peggio soggetto, però comunque era un pensatore conservatore, contrario anche tendenzialmente a l'approccio anche, non dico rivoluzionario per carità di Dio, ma riformista, diceva, perché comunque tendenzialmente la natura fa il suo corso, non è che serva metterci mano del nostro. Lui in particolare, vi leggo le ultime tre righe, cioè vi leggo qualche riga diciamo di nel quale tenta di spiegare la legge dell'evoluzione secondo lui, dice: l'evoluzione è un'integrazione di materia accompagnata da una dispersione di moto, in cui la materia passa da un'omogeneità indefinita, incoerente, a una eterogeneità definita, coerente, mentre il moto trattenuto subisce una trasformazione parallela. Bellissimo, bellissimo. E quindi nulla, Spencer la pensava un po' in questa maniera. È interessante che rispetto, diciamo, al dibattito che avevo un po' illustrato l'altra volta di se l'uomo abbia in sé dei principi a priori oppure sia tutto da costruire a posteriori, eccetera, lui dice che sì, l'uomo tendenzialmente ogni individuo ha qualcosa di sé a priori, che però è la posteriori della specie. E in questo si rientra un po' nel pensiero più simile a quello di, cioè a quello che potremmo più riferire al campo di Darwin, no? Cioè noi, la nostra specie, ha degli a posteriori che sono un adattamento, no? In questa nostra lotta per la sopravvivenza, noi ci siamo adattati e questa cosa la trasmettiamo in maniera ereditaria e quindi chi se la becca per forza ha delle cose a priori. Però questo è comunque la posteriori della specie e si ritorna di nuovo al dibattito su quanto conta l'esperienza all'interno del, diciamo, dello sviluppo dell'uomo e anche quindi del pensiero scientifico. E praticamente siamo tornati a parlare di quello di cui si parlava già l'altra volta, e nello specifico l'altra volta noi abbiamo ridotto parecchio il campo iniziando a parlare di logica e di sillogismo, però insomma si va a parare sempre e comunque lì. Riporta ancora una volta all'urgente valutazione di quanto rimane ancora da possedere. Punto 6 dell'ordine del giorno: il significato della vita. Harry, Tu avevi delle idee in proposito, vero? Esatto. Un gruppo di studio ci ha lavorato su nelle ultime settimane e le conclusioni possono essere riassunte in due concetti fondamentali. Uno, gli uomini non portano abbastanza cappelli. Due, la materia è energia. Nell'universo esistono molti campi energetici che non riusciamo normalmente a percepire. Alcune energie hanno una fonte spirituale che agisce sull'anima dell'individuo. Tuttavia, tale anima non esiste ab inizio, come insegna il cristianesimo ortodosso. Deve essere portata in essere con un processo di auto-osservazione controllata. Tuttavia, ciò avviene raramente, data la singolare abilità dell'uomo nel farsi distrarre dalle questioni spirituali, dalle trivialità quotidiane. Che cos'era quella storia dei cappelli? E dunque, ora parliamo un pochino di Darwin, dopo aver introdotto tutte le varie problematiche con il signor Spencer. E diciamo che con tutto il pensiero evoluzionista, se volessimo riassumere, scompare un po' quell'immagine millenaria che l'uomo ha di sé, un'immagine che è un po' incarnata dalla teoria che potremmo definire fissista, che sostanzialmente parlava di specie, di specie fisse ed immutabili che sono esistenti così come le conosciamo sin dalla loro creazione. Ecco, questo è un bel colpo per tutto il pensiero dominante di allora. C'è infatti chi la prende abbastanza male. Ecco, ad esempio potremmo citare, e ve lo cito perché è interessante come dibattito che nasce poi postumo su dopo la pubblicazione di Darwin della teoria delle specie, che è il suo libro più famoso. Ecco, giusto per dirvi che Darwin era uno che viaggiava molto, no? Era un naturalista, è stato alle Galapagos, è stato all'isola di Capo Verde, si è fatto un sacco di viaggetti. In tutti questi viaggetti ha appunto derivato questa convinzione appunto che l'uomo in bella sostanza derivasse da evoluzioni di altre specie animali, in particolare noi siamo abbastanza simili alle scimmie, e c'è chi ci è rimasto proprio male per questa cosa. Ad esempio il signor Benedetto Croce scrive come commento sul dibattito sul darwinismo sì, darwinismo no, evoluzione sì, evoluzione no, dice: ecco, l'animo umano secondo lui chiede alla storia la nobile visione delle lotte umane, e invece che riceve in cambio da questo darwinismo? L'immagine di fantastiche origini animalesche e meccaniche dell'umanità, e con essa un senso di sconforto, di depressione e quasi di vergogna a ritrovarci noi discendenti da quegli antenati e sostanzialmente a loro simili, nonostante le illusioni e le ipocrisie della civiltà brutali come loro. Ecco, si vede che a Benedetto Croce non gli piaceva di essere paragonato a una scimmia. A me alle fine le scimmie non mi stanno poi così antipatiche. Ecco, dicevo appunto che di Darwin non parleremo molto, però almeno una chiosa su un dibattito, cioè su un'interpretazione del pensiero di Darwin è particolarmente aberrante, che è tutta la filone di pensiero sul darwinismo sociale, cioè su tutti quei pensatori che partendo dalla lotta per l'esistenza, che Darwin mette diciamo come butta lì come motore dell'evoluzione delle specie, e derivano una sostanzialmente una giustificazione per diciamo la visione classista della società, o addirittura diciamo una giustificazione per la sopromazia di certe tipologie umane su altre. E nello specifico allora si parlava di razze, quindi su teorie di supremazia della razza. Da tutto questo filone di pensiero poi deriverà l'eugenetica, questa specie di pseudoscienza, e via così. Ecco, c'è da dire che Darwin non intendeva probabilmente esattamente questo quando ne parlava, posto che non voglio fare l'apologia del signor Darwin, però ecco, riprendere anche il suo pensiero e stravolgerlo in questa maniera è una cosa brutta. E quindi ora vi facciamo, se invece vi volevo far sentire un bel brano che ci riporta appunto a quella dimensione più di evoluzione dell'universo, di pensiero su significato della vita e tutte queste cose che abbiamo assaporato nel pezzettino su Spencer. E quindi vi faccio ascoltare allegramente Galaxy Song, tratto dal senso della vita dei Monty Python. Il mio compito è facile. Si basa sul nostro primo articolo della fede. L'Onnipotente creò la scimmia a sua immagine e somiglianza. Le dette un'anima e una mente. E la volle separata dalle bestie della foresta. E la fece padrona del pianeta. Sacre verità che sono di per sé manifeste. Lo studio che si addice alle scimmie è quello della scimmia. Ma alcuni giovani cinici hanno scelto lo studio dell'uomo. Sì, scienziati perversi che avanzano un'insidiosa teoria chiamata evoluzione. Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. On expanding and expanding in all of the directions it can whiz, as fast as it can go, at the speed of light you know, 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth, and pray that there's intelligent life somewhere up in space, 'cause there's bugger all down here on Earth. E abbandoniamo ora il signor Herberto Spencer e Carlo Darwin e introduciamo ora la parte più informaticosa. Questa volta volevo ancora fare una chiosa informativa, cioè poco tecnica, di una notizia buffa, ma più per come è stata data che non per la notizia in sé. Leggevo infatti qualche giorno fa sul sito di Repubblica un articoletto che si intitola precisamente "Il Politecnico di Torino dà lezione di difesa dagli hacker agli 007 italiani". E vi leggo alcuni brani dell'articolo e poi vi spiego perché è interessante. Il Politecnico darà lezione ai tecnici del DIS, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, ossia l'organo che coordina i servizi segreti italiani. L'Ateneo torinese ha infatti siglato un nuovo accordo di collaborazione con la struttura che fa capo alla Presidenza del Consiglio. Un'intesa simile era già stata sottoscritta 3 anni fa, ma ora la partnership si arricchisce di nuovi elementi. Come facilmente intuibile, molti aspetti dell'accordo sono tenuti top secret. ma in linea di massima l'idea è di attivare una collaborazione che riguarda soprattutto due fronti. Il primo è quello della formazione. Docenti e ricercatori del Poli prepareranno così corsi di aggiornamento per gli addetti del DIS. Il secondo ambito, di partnership, fa invece riferimento ad alcune innovazioni create all'interno del Politecnico, che potranno essere sperimentate sul campo dal Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Nell'articolo si precisa che gli ambiti su cui si svolgeranno questi gruppi di ricerca e di educazione ai nostri 0007, quanti zeri ho messo? Troppi, 007, solo due, solo due zeri, saranno in particolare l'ambito della cyber security, poi i big data e poi l'analisi del traffico di rete. Ecco, è interessante tutto questo perché a chiosa dell'articolo c'è poi una precisazione del Politecnico in cui si dice: il Politecnico di Torino da anni collabora in modo proficuo con il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, il DIS, e diciamo che da anni conduce ricerche e studi in partenariato, oddio che parola bruttissima, su numerose tematiche nei termini dell'accordo siglato tra i due enti nel 2013. Ora sono attualmente in fase di approfondimento diversi nuovi ambiti di collaborazione per proseguire nel lavoro comune intrapreso in questi anni e rinnovare l'accordo in scadenza, ma l'Ateneo precisa non è stato al momento sottoscritto nessuno specifico accordo per formare il personale dell'intelligence sul tema della cyber security. Quindi, a me mi faceva solo buffo che non si capisce bene da dove l'abbia presa la notizia Repubblica, però nell'articolo sostanzialmente si parla di educare gli 0007, ho detto di nuovo 4 zeri, troppi zeri, solo 007 sulla cyber security, e poi però il Politecnico specifica in una nota che in realtà non c'è nessun accordo per formare il personale dell'intelligence sul tema della cyber security, e mi è sembrato buffo perché è un paradigma interessante di come spesso le informazioni in generale, ma spesso proprio nello specifico delle tematiche tecnologiche legate a questi ambiti, cioè quando si parla di hacker, di sicurezza informatica, di cose così, vengono date essenzialmente a caso. È una roba che sui giornali italiani si sente tantissimissimo, e quindi mi piaceva di sottolineare che effettivamente Repubblica si è distinta di nuovo in questo campo. E nulla, e poi mi faceva anche piacere di sottolineare come comunque il Politecnico di Torino collabori da anni con il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. È una cosa che certamente ci lascia tutti più tranquilli, no? Non vi sentite più sicuri adesso quando usate l'internet? È bello, no? Questa cosa è bella, sì. E quindi niente, su questa bella notizia che ci rende tutti più felici, e vi lascio e vi do appuntamento alla prossima settimana con Coccoli al Silicio. Ciao a tutti. Ghost Track, non è vero che avevo finito, non è vero, ci ho ripensato, vi volevo dire ancora una cosa, visto che ho saltato la parte tecnicosetta, in realtà qualcosina da dire ce l'avevo. Mi è venuto in mente che l'altro giorno, guardando il sito di una fanzine, una delle più vetuste e più belle che ci sono in circolazione, si tratta di Frack, la potete guardare dal sito www.frack.org, scritto P-H-R-A-C-K. Ecco, faticosamente l'anno scorso era uscito il nuovo numero, erano 4 anni che Frack non usciva, hanno iniziato da l'edizione precedente a pubblicare sostanzialmente degli estratti, delle specie di anticipazioni del numero in costruzione in essere, nel senso che Frack ha questo modo di prodursi, che è lanciare un appello, raccogliere il materiale, e quando c'è abbastanza materiale per fare un numero si fa il numero. Ecco, apprendiamo con piacere che passato questo numero del 2016, Frack ha rilanciato l'appello, e se guardate nella sezione Paper Feed, che è quella in cui pubblica le anticipazioni, ho trovato un articoletto del 25 gennaio 2017, quindi fresco, e mi sembrava bello recensirvelo. A me ha ispirato un sacco, più che altro perché mi ha fatto conoscere un progetto che non avevo considerato finora, invece sembra interessante. L'articolo di per sé parla di una roba anche discutibile, ma alla fine parla del Cyber Grand organizzato dal DARPA. Si chiama DARPA Cyber Grand Challenge, è sostanzialmente un capture the flag, cioè una gara nella quale delle persone si sfidano attraverso la composizione di alcune squadre, si sfidano appunto nel campo della sicurezza informatica, nel senso che uno deve attaccare i computer delle altre squadre e difendere il proprio. Di solito queste gare hanno dei vincoli, tipo devi far girare certi software e cose simili, perché altrimenti uno mette un computer che non c'ha niente sopra e la gara l'ha già bella vinta, ma non è questo il gioco. Il Capture the Flag è appunto uno dei modi in cui si rende giocosa la sicurezza informatica. Ora, questo Capture the Flag in particolare, organizzato dalla DARPA, che è un'agenzia governativa, avrà anche i suoi scopi non troppo nascosti, cioè si tratta probabilmente di vedere come, diciamo, chi è bravo nel campo della sicurezza informatica, e poi nel caso anche offrirgli un lavoro governativo, si intende. E al di là di queste considerazioni, comunque alla fine l'articolo su Frack è interessante, è scritto da questa Shellfish, questo team sostanzialmente di ricercatori di un'università, penso di Santa Barbara, mi sembra di aver letto nell'articolo, ma non sono troppo sicuro, però può darsi, che volevano partecipare a questo particolare Capture the Flag, che non vi ho ancora detto che in realtà ha questa caratteristica di non essere un Capture the Flag con le persone, ma essere un Capture the Flag nella quale tu devi sostanzialmente allestire un'infrastruttura informatica che sia in grado di attaccare un'altra infrastruttura informatica in maniera automatica e difendere la propria sempre in maniera automatica. Quindi si tratta sostanzialmente di analizzare le possibili vulnerabilità dei sistemi avversari e automaticamente scrivere l'eventuale exploit e via così. Se vi interessa sapere i dettagli tecnici di come si svolge questa cosa, potete leggervi l'articolo su Frack. In realtà io mi sono interessato, cioè la parte che vi volevo raccontare non è questa, su questa competizione, questo Capture the Flag, ma una parte che ho scoperto, un progetto che ho scoperto leggendo le note al fondo, in cui viene citato questo progetto Angr, che potete trovare al sito Angr, scritto angr.io, che ho scoperto appunto leggendo l'articoletto, arrivando al fondo, andando a vedere le note, e dico: guarda che bello. È un progetto nato da alcuni articoli, qui ne sono citati un po', in particolare questo articolo che sono andato a leggiucchiare si intitola The Art of War, Offensive Techniques in Binary Analysis, e è un articolo del 2016, sempre scritto da gente universitaria, citato sempre lo stesso professore Giovanni Vigna di Santa Barbara. Diciamo questo progetto sostanzialmente va a realizzare quello che loro hanno teorizzato in alcuni articoli. Gli articoli sono comunque citati, a parte questo che vi ho detto, si titola di Art of War e bla bla bla, ce ne sono un altro paio che, se guardate sul loro git, cioè su quel sito che vi ho detto prima, e guardate un po' la documentazione, c'è scritto che se usate questa roba qua, citate anche gli articoli da cui è tratta. Uno è questo di Art of War, poi c'è Augmenting Fuzzing Through Selective Symbolic Execution, che è sempre un articolo del 2016, e poi c'è un articolo del 2015 che si intitola vediamo un po', Firmalize Automatic Automatic Detection of Authentication Bypass Vulnerability in Binary Firmware. Interessante anche questo, deve essere. E insomma, questi tre articoli hanno dato vita a questo progetto, che loro utilizzano principalmente per giocare ai Capture the Flag. E si tratta di un progetto, come avevo già parlato nella prima puntata, in cui abbiamo parlato di The Witchcraft Compiler. Ecco, si tratta di un progetto per analizzare binari facendoli girare in un ambiente, diciamo, controllato da noi. Quindi quello che voi potete fare sostanzialmente utilizzando Angr, che io non ho ancora utilizzato, ma nelle prossime settimane ci giocherò e poi ve lo relaziono meglio dopo che ci ho studiato un pochino sopra. Quello che però ho capito bene che il progetto si pone di fare è creare un ambiente per l'analisi dei binari e quindi di offrire un modo diciamo più semplice per l'analisi dell'esecuzione di un programma, quindi per capire ciò che un programma fa effettivamente, non ciò che secondo il programmatore dovrebbe fare, ma ciò che realmente fa. Quindi è utile anche per l'analisi, non lo so, di malware, o comunque è utile per l'analisi relativa alla sicurezza di un programma e appunto per giocare Capture the Flag, per sbizzarrirsi con tutto questo mondo buffo, per chi è un folle interessato a questa parte esoterica dell'informatica. E quindi niente, con questa piccola recensione, con l'annuncio appunto con l'invito a andarvi a vedere i paper feed di FRAC, se non l'avete ancora fatto, c'è anche l'annuncio che stanno raccogliendo il materiale per la prossima edizione. Se vi leggete l'articoletto, che comunque è interessante, al fondo trovate anche appunto i riferimenti a tutti questi a questo software. Quindi anche se vi siete persi, io non sono chiaro nello spiegarvi che cavolo è, ve lo potete andare a vedere da soli se siete persone curiose. E questa volta chiudo veramente la puntata con questo input e ci risentiamo la prossima settimana, magari con una recensione più vera. Penso che proverò questo oggetto e poi vi racconto meglio che cosa fa per davvero. Dottoressa, io vorrei darti un bacio d'addio. Va bene, ma sei talmente brutto. Canzone, sentirsi consumato a 20 anni da solo, terreno. testa, vedrai, vedrai. Il tuo sorriso a poco sparirà e ti allontanerai. Per ora lasciami stare e vedrai. Gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte. Tu potrai fare i discorsi che vuoi, ma gira sempre dalla stessa parte. Ne parlano da anni, non è un'opinione. Passo dopo passo verso l'estinzione. Nel mondo all'inciù ci vivi anche tu. Un disegno perfetto di ogni sera nello stesso letto. Come gira il mondo, ora che ho capito come gira il mondo, ora che ho